24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano i nuovi timori sull'economia continentale dopo le dichiarazioni delle principali autorità tedesche che non prevedono progressi definitivi dal Consiglio europeo in programma domenica, così come chiesto dal G20 finanziario. Preoccupazione anche per le prospettive di crescita della Germania. Le borse hanno reagito male ieri, chiudendo al ribasso. Oggi vi racconteremo anche le reazioni dell'Europa alle manifestazioni e agli incidenti degli indignati e vi porteremo in Francia per raccontarvi chi sfiderà il presidente Nicolas Sarkozy alle prossime presidenziali. Per chiudere, torna la Champions League. La Germania smorza dunque l'attesa sul vertice europeo in programma domenica, consentirà di compiere progressi sensibili sulla crisi dell'Eurozona, ma la cancelliera Angela Merkel ha avvertito che i sogni di vedere la crisi finita già da lunedì prossimo non potranno realizzarsi. Così il portavoce del governo Steffen Seibert. Aggiunge il ministro delle finanze Wolfgang Schäuble, il summit non darà risposte definitive per la soluzione della crisi del debito. Le prospettive di crescita della Germania sono peggiorate, con le imprese che tagliano le proprie stime e con gli ordini dall'estero in calo. E quanto afferma la Bundesbank nel bollettino mensile. Sabine Lautenschläger, vicepresidente della Bundesbank, ha messo intanto in guardia l'Unione Europea dal rischio di imporre alle banche private una ricapitalizzazione troppo elevata. Le dichiarazioni tedesche non hanno certamente giovato alle borse, che hanno avviato la settimana in negativo. Parigi ha ceduto l'1,5%, Francoforte l'1,9%, mentre a Milano il FTSE MIB e l'Olcher hanno lasciato sul terreno il 2,3% e l'1,98% il servizio. Inizio di settimana in rosso per le borse europee, spinte a ribasso da materie prime, auto e titoli finanziari. A incentivare le vendite è stata ieri anche il portavoce della Merkel, secondo cui il vertice UE del prossimo weekend non risolverà di colpo i problemi dell'Eurozona. Parigi ha così ceduto l'1,5%, Francoforte l'1,9%, mentre a Milano FTSE MIB e Olcher hanno lasciato sul terreno rispettivamente il 2,3% e l'1,98%. Meglio Londra, che perde 0,5 punto. A Milano di Assore nella peggiore cede il 10% dopo aver tagliato le stime sul 2011. Giù i principali istituti di credito a partire da Unicredit, -6,1%, e Intesa San Paolo, -5,3%, per arrivare a Popolare di Milano, -4,8%, che inizia in rosso la settimana dell'assemblea decisiva per governance e CDA. Ceo Condina da Radio Corp, Radio 24, il Sole 24 Ore. Il capo della Task Force Europea per la Grecia, Horst Reichenbach, si è detto fiducioso sul fatto che Atene riceverà l'ultima tranche da 8 miliardi di euro del nuovo pacchetto di aiuti internazionali. Il vertice tra Europa, rappresentanti sindacali e degli imprenditori ha messo in evidenza una divisione su come si possa rilanciare la crescita nel vecchio continente. Così Bernadette Segol, segretario generale dell'ETUC, la Confederazione Europea dei Sindacati. Il focus è sulle misure di austerità. L'Europa non ha un pacchetto New Deal per rilanciare la crescita e creare posti di lavoro, ha denunciato la Segol. Intanto i due maggiori sindacati del Portogallo hanno proclamato uno sciopero generale in risposta alle nuove misure di austerità decise dal governo di Lisbona. E l'Unione Europea comprende il disagio degli indignati, ma sarebbe irresponsabile non proseguire con le misure per il consolidamento fiscale degli Stati membri, lo ha dichiarato il presidente della Commissione Europea, Giuseppe Barroso. Parliamo ancora di indignati dopo le manifestazioni mondiali di sabato, che a Roma sono purtroppo sfociate in gravi incidenti. Molte e numerose le polemiche in Italia, ma su prevenzione e repressione vediamo come ci si muove negli altri paesi. Misure preventive, collaborazione con gli organizzatori e punibilità certa. Questi capisaldi intorno ai quali ruotano le regole per le manifestazioni in molte grandi città. Cominciamo da New York, dove il Dipartimento di Polizia non ammette nessuna deroga alle regole imposte. Anche il superamento di una transenna può costare l'arresto. Agenti schierati a pochi metri dai manifestanti, dialogo costante con il loro servizio d'ordine e monitoraggio del corteo con torrette mobili, gli altri punti fermi. A Parigi, dove ci sono in media 4 manifestazioni al giorno, chiunque voglia scendere in piazza deve segnalarlo alla prefettura almeno 3 giorni prima, specificando luogo, ora è itinerario del corteo. Manifestare senza autorizzazione è reato. A Londra le forze dell'ordine hanno ampi margini di intervento, potere di perquisizione e fermo dei manifestanti inclusi. Nei confronti dei facinorosi la magistratura può emettere ingiunzioni restrittive. A Berlino è vietato partecipare a un corteo con il volto coperto. Chi indossa caschi o passamontagna viene identificato e denunciato, rischia il carcere fino a un anno. E in occasione di cortei a rischio per le persone più violente esiste anche la carcerazione preventiva. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sanzioni penali contro gli abusi di mercato e l'insider dealing, fine del monopolio delle agenzie di rating, obbligo di trasparenza per chi contratta sui mercati e fuori borsa. Così Bruxelles lancia la sua tolleranza zero contro chi agisce sui mercati in modo troppo disinvolto. Mercoledì la Commissione europea darà il via libera alla revisione della direttiva MiFID. Ora in Francia, sconfitta in modo netto al ballottaggio delle primarie da François Hollande, Martine Aubry è tornata alla guida dei socialisti francesi, incarico dal quale si era autosospesa a giugno. Domenica, dando atto a Hollande della vittoria, aveva invitato tutti a stringersi intorno al nostro candidato. Ma sentiamo ora un ritratto del prossimo sfidante di Sarkozy da Marco Mussanè, corrispondente da Parigi del Sole 24 Ore. François Hollande ha 57 anni, è stato segretario del Partito Socialista tra il 1997 e il 2008. Quindi per 11 anni, è il rappresentante dell'anima centrista del Partito Socialista, è un moderato, ha dalla sua il fatto di essere, come dire, un candidato normale, questo è stato peraltro il suo slogan di campagna, e cioè un candidato, un politico vicino alla gente, alla mano, accogliente, simpatico, cordiale. Al contrario, diciamo, tra le sue mancanze, tra le sue carenze, come sottolineano spesso i suoi avversari, c'è il fatto di non essere mai stato ministro e quindi di non avere un'esperienza governativa. È sicuramente il miglior candidato possibile nella logica secondo cui le elezioni si vincono al centro, cioè sicuramente un candidato più rassicurante rispetto ad altri leader della sinistra, ad altri leader socialisti che rappresentano forse una sinistra più di contrapposizione, più dura, diversa rispetto all'anima centrista del paese. Sempre in Francia, l'ereditiera di L'Oréal, Lilian Bettencourt, sarà messa sotto tutela. Ad annunciarlo è stato l'avvocato della figlia Françoise, che insieme a due nipoti ne gestirà il patrimonio. La tutela sarà invece esercitata dal primogenito Jean-Victor. E ora ci spostiamo in Romania, dove si sta verificando un fenomeno molto strano. Si va a Bucarest sempre più per divorziare. Si trovano in Romania le offerte speciali migliori per il turismo del divorzio low cost. Per spese e tempi, il confronto sulla carta è schiacciante: 1.500-1.700 euro e 6 mesi di attesa per chi sceglie la via rumena, e oltre 6.000 euro e almeno 3 anni di anticamera in Italia. Ma tra le destinazioni ci sono anche Germania, Spagna, Francia, Gran Bretagna, come spiega l'avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell'associazione Avvocati Matrimonialisti. Sono almeno 5 o 6 anni dall'inizio di questo esodo di massa. Pare che almeno 8.000 coppie italiane abbiano scelto il giudice straniero per farla finita dal punto di vista matrimoniale. Il divorzio last minute targato UE è valido e legale a 360 gradi. Il regolamento CE 44 del 2001 sancisce che le sentenze emesse da giudici della Unione Europea hanno quindi efficacia in tutti i paesi. L'escamotage dello shopping giudiziario è ormai oliato e ridotto a business nel paese rumeno. Bisogna prendere la residenza all'estero attraverso l'affitto di un appartamento e dopo 6 mesi ci si può rivolgere al tribunale in loco e quindi chiedere il divorzio attraverso un avvocato straniero. Questa sentenza deve essere tradotta in italiano e depositata presso l'ufficiale dello stato di anagrafe della propria città. Entro un anno massimo dall'inizio di questa operazione il gioco è fatto. Ovviamente attenzione alle truffe e ai documenti falsi, ma soprattutto bisogna vedere se il gioco vale la candela. E a fare bene i conti, non è proprio un divorzio veloce alla portata di tutti. Questo tipo di turismo divorzile riguarda solo persone da reddito medio-alto. I mille-euristi italiani, francamente, a tutto pensano tranne che a fare questo tipo di operazioni all'estero, anche se ne avrebbero tutto il diritto. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Calcio ora per chiudere, pronto alla grande sfida di oggi in Champions League col Bayern Monaco a San Paolo, ma anche a rimanere a lungo a Napoli. È Marek Hamšík, stella dei partenopei, ieri protagonista della conferenza stampa alla vigilia della gara coi tedeschi. Sentiamo. È una sfida, una bella sfida, con squadre che hanno più punti in classifica, però non deciderà ancora il gruppo. Sicuramente abbiamo il vantaggio di giocare in casa davanti al nostro pubblico. Non è, Napoli non è una prigione,